lo chef? Cosce di pollo con patate al forno. No, tranquillo, c'ho so cosa che hai detto. Ma con me che non mi ricordo, non lo metto in casa. E poi mi ha regalato, come c'è per modo, fra un barattolo di crema di formaggio fatta da lui, piccantina, avevamo fatto combinando in cucina, quando una spianatina resa, un pezzettino a me, un pezzettino a moglie, un aperitivo, goccettino di quelle brutte, buono, fresco, fresco, me. Aia. State una scelta. No, io c'ho il vino in fresco, poi una coscettina di pollo, due patate, un bel bicchiere di vino e due baguette, e poi c'ho anche il formaggio di capra. Sì, venuto qua si fa. Ho visto che c'ho il bico. Ho fatto la pettuglia, e si è più riparato, capito? E la canna fumaria ha fatto salire dal guasto, quindi è una gannonata. Anche, vabbè, se piove forte, forte no. Però giornata come oggi si poteva rostire tranquillamente. Mi figlio ha detto, papà, vuoi del canarotto? Vabbè, anche lei c'è alle 10, no? Non ti preoccupare che papà ti fa trovare tutto pronto. Eh beh, almeno si è riparato anche per arrostire lì. Specialmente, vabbè, di estate già va bene, ma d'inverno quando cominciano le piogge è un casino. Estate, io sai, no? Estate gravato, la fetta nudo, costume, e vamo sulla playa, che ce n'è appena netta, e città, che c'hanno di più, quattro vicino. Ho già ordinata, già messa da parte, perché sennò poi no, non è proprio, capito? Quella da, ho preso la più grande che c'è, quella da 10 metri per 6, 5 metri, perché poi ci sono i montanti, la cosa. Questo è uno spettacolo, faccio la parte dove non ho messo il prato inglese, li metto il finto prato, l'ombrellone di spray. Vicino a quella con le pompe. Io, quella con la c'è Andrea. Bellissima, cazzo, bellissima. Lui ha fatto tutto il suo palco, il trampolino, andiamo, faccio. C'è la scaletta a salire, e vamos. E vamos. C'è la cosa, l'antitrampolino, la cosa non barca di su. La piscina 1.200 rotti. E sono quasi su 1.300 euro, la completa di tutto, però anche di motore e tutto. Infatti devo venire in muratura, la prossima settimana, ho detto a finire quella stanza del Caverio, e faccio fare nel giardino dietro una casettina con la nicchia, e dentro ci metto il motore. Esce bella lì, dove quel pezzo di fuori esce la grande, la piscina. Esce un bel lavoretto lì. Lì, nella parte dove c'è la mantova, quella parte lì. L'ho scelta proprio senza erba, senza fare tratto. Capito? Esce un pochettino di erbetta, però gli altri devo invece spugnare. Lì metto il finto prato, quello in plastica, no? C'è una cosa bellina quest'estate, e purtroppo questa non ce l'ho fatta. Avevo troppe altre cose più urgenti. Al prossimo anno che organizzeremo è a Mari, si abbia in culo. Mi voto tutti, no, ben tanto cosa fai. Però Franco di Sciò, sempre che non te la buona piscina del Tarrazzo. È vero, e se non lo vedo per me doveva che la luce muove del tutto. No, io c'ho spazio, il Franco già l'ha visto. C'è 200 metri quadri in piano, un bello di giardino, e non vendo un bel, non vendo il fiore, hai poi solo prato. E ho fatto metà prato inglese, metà l'ho lasciato normale, capito? Tutto dove c'è il passaggio per entrare, eccetera. E lì metto questa. Ah, magari devo fare una vicina a scavo fra, una buffandici. 30 anni ho speso quasi 30.000 euro per fare la piscina a scavo, non ne vale la pena. Non ne vale la pena, poi mi ha detto una cosa, ti crea umidità, ti crea problemi, capito, filtrazioni d'acqua. E invece buona inizia, vamos, va bene lo stesso. No, è bella, poi è una bella villetta la tua, bella grande, bella casa, complimenti perché è bella veramente. Bisogna dire, lo sai, con te non ti ho mai nascosto niente. Ho fatto tanti di quei sacrifici che ha qui Sant'Antonio. Speriamo di godercela, speriamo di godercela. Finché non ero battagliente. Un pezzo oggi, un pezzo romano, un pezzo nazionale romano. Lui. Però Franco, se non andavo alla casa di Sassari non ce l'avrei mai fatta a finire. avrei mai fatto, sarebbe stata come era, tutta la finita, invece finalmente l'ho finita, finalmente ce l'abbiamo fatta, se Dio ti lascia, se no, invece no, se ne godrà mia figlia giovedì, vai Giorgio. Capo, io riprendo e vi lascio perché me ne vado tutto a mangiare, ci sentiamo. Ciao, buon proseguo di serata, buon tutto. Ciao Franco, ciao Claudio. Ci sentiamo alle prossime. Grazie, via Fra. Buonasera, riprendo io. Ciao Fra, buon carica, buon tutto e ce la riascoltare in prossima. Vai Fra. Ciao Franco lì, un abbraccio grande, fate sentire. Non mi fa solo che piacere. Gente sicuro a Tramontana oggi, a Vannino. Ho entrato stamattina, facevo il chiacchiere. Va bene, ciao, buona cena, buon tutto. E Fra. Diciamo che, adesso vediamo, piano è ancora da fare, devo ancora mettere dietro, dove ho chiuso con i pannelli, lì ci vanno tre finestre grandi di PVC, lì mi costano almeno 500 euro a finestra, e lo facciamo adesso, però prima mi finisco con la stanza grande che c'è, per fuori del Calvario, dietro il Calvario. Gli faccio un mini appartamentino, una salvettina, il bagnetto e l'angolo cottura. Esce una cosa carina, ricca. Ecco, avevo registrato, avanti. Ciao Claudio, ciao Franco. E beh, che si dice? Ah? Dimmi, ho salutato, ciao Claudio, ciao Franco, gavè. Esce veloce, io e Franco, gavè. No, sto guardando Napoli, mancano 5 minuti, 1-1, Napoli-Verona. E la Verona mi sta mettendo in mezzo forte. Ho detto, vabbè, che questa Verona è una cosa spettacolare. Non per Napoli di Tegna, ma Napoli è forte, mi. Napoli non perdona. Non perdona, a Napoli mi fuori casa, fuori che hanno squadrone, uno male che se l'ha fatta la Juve, esce al Milan, a tutti all'Inter, esce che. No, è forte. Poi mi piace giocando aggressivi, no? Anche se giocano in trasferta, lottano come che quando sono in casa. Se Napoli pareggia, prende due punti di carte. Deve stare attento, dice Milan Inter. Poi 10.000 Inter ce ne va, una delle due ce ne va prima. Io sono convinto, poi mi sbaglierò che il Milan vince oggi. Non lo so. Inzaghi non va per perdere. Vabbè, anche Fiori non è buccia di gioco. Vabbè, vinca il migliore, dove ti dica. Vinca sempre il migliore. Ha visto ieri, ha vinto la migliore. Ha giocato a. Ci ha creduto e ha vinto, ma io, se non ci credi giocando a pallone non fai nulla. Vai Franco. Franco? Ma c'è Roberto? Sì, sono entrato adesso in questo momento. Vabbè Gianfra. Ciao, buonasera a tutti. No, io stavo ascoltando di laggiù, sotto. Che c'è un bollettino di attenzione dall'Olanda per probabili tempeste. Hai visto che è successo a Porto Rotondo ieri? No, ma oramai ogni giorno così. Li ha trovati quegli affari là? Sì, ho preso il mouse e la chiavetta con l'audio e non era facile trovarla, ne ho girato tre, al terzo sono andato e l'ho trovata, uguale a quella che mi hai detto tu, tre cose, 3D, non come cavolo ci sta, adesso non me lo ricordo neanche, quello che mi hai detto, comunque come quella che mi hai detto tu, quasi la stessa marca, figurati. E poi ho preso dei cavetti adattatore da jack a coso, a RCA, così faccio direttamente il collegamento senza modifiche. Da jack a RCA, non ho capito cosa serve l'RCA comunque. Va bene, dai. Proseguite che io sto andando a cena. Ci vediamo o ci sentiamo tra una mezz'oretta. Adesso, perché alle 9:15 c'è la partita. Sono le 8:10. Sì, yeah. Ok, ma Franco California alle fine ha fatto. Avrà chiamato Lucia, qui all'accordo. Franco, lascialo un bollo. Gianfra, ho messo RCA perché l'uscita CC2 del K esce con RCA. RCA? Ma sei sicuro? Non esce, l'ho fatto io. È il cavo che esce 13 pin e ho fatto l'uscita RCA per attaccarle a quelle apparecchi che dico io. E poi la RCA lo metto a mini jack. Speriamo non esploda tutto. andiamo a vedere. Vabbè, lo seguite, io vado a cena. E adesso non tardi troppo, magari ci siamo ancora. Vai tu. Gappa, gappa, gappa, dai. Si conferma. Va bene, va bene. Io anch'io mi avevo detto. Andiamo a accennare. Chiedami l'ultima occasione del Napoli, 89 su posizione, ma arrivate all'ultimo secondo questi balordi. Io quello che c'hanno, Napoli ha sempre vinto negli ultimi minuti quando trova la squadra che dirà di mattana. È una bella punizione adesso, una posizione un po' pericolosa. E la vita a Roma, a signor Mourinho. Ah, vai, ti fa le pagine di Mourinho, perché come diceva Rimini, no? Che è dettare legge, la signora Giuseppe Rappigliato, da Venezia. Cacchio, ha fatto il risultato il portiere del Verona, gliel'ha messa all'angolino, ha fatto una parata allucinante. Ti l'ha tirata in cigna, no? Ehi, forse ha toccato anche appena il palo, gliel'ha messa all'angolino e ci avesse preso il palo. Sì, ha preso il palo, l'ha toccato al portiere, però ci è arrivato. Ti insegnava un sinistro micidiale, come bravo quel ragazzo. Anche il fratello che gioca nel Benevento è molto bravo, tutti e due sono bravi. Allora facendo entrare, l'ha già compreso, al 90esimo passato sta facendo entrare un attaccante a Petagna, ha tolto a Osimè e entra a Petagna. Cioè, io molte volte l'allenatore non li capisco. Sì, vabbè, bisogna vedere quanto recupero c'è. Se ci sono 5 minuti di recupero, 5 minuti il giocatore fresco ti può risolvere il problema. Secondo me l'ha tolto perché l'hanno ammonito a Osimè, magari non se lo vuole rischiare. Siamo al 91esimo, mancano altri 3 minuti, erano 4 recuperi. Vabbè, tu io mi segni che così in 3 minuti un giocatore fresco, capito, può risolvere la partita, il risultato, ma è il primo, hai visto la quadrata appena entrata quando ha tirato quella pizza. Oh, ha fatto un gol che neanche lui se fa, lo fa 10 volte non lo fa quel gol. Infatti io ho convinto che lo sciavo, invece ha tirato e si è entrato in mezzo. Ha fatto proprio l'unico posto che poteva passare. Quindi però era fresco, ha ragionato con la testa e ce l'ha fatta. Diversamente quando un giocatore stanco non ve la va di più, manco a ragionare con la testa, capito? Sì, poi gli mancano le gambe, il cervello magari gli dà il pensiero, però le gambe non li reggono più. Ok, aspetta un attimino se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti sul 10 che vuole entrare. Beh, c'ero io, Robè, che no, mi stavi chiamando, ma avevano bussato la porta, una signora vicina a casa, per una commissione, e quindi non ho potuto riprendere. Riprendi tu, dai, fai girare. Ma sei a casa qua a Sassari, al monte, Fra? Tappa di positivo, bene mi ascolti? Sì, quasi 9:20, sì, un altro espulso dal coso. Due del loro ne hanno espulso. È un passaggio. Ora. 9:25, sì, Robè, qua. Vabbè, io esco non più di 10, tenete presente, poi ci sono i picchi, vabbè, di modulazione arriva molto di più, però la cosa base sono 10 riportati. Anch'io, 10 watt, stiamo aspettando col 430 amici 60, sono 10 watt e poi i picchi di modulazione, bruciano 20-25. Gli arrivi forte tu, te l'ho detto, vabbè, già non siamo troppo lontani, però se consideri la distanza effettiva forse sei più lontano tu di molti che ci sono per dire al monte o altre zone, però arrivi molto forte qua, te l'ho sempre detto. Sì, anche voi mi arrivate tutti bene, non avrei mai immaginato, c'è l'antenna bassa, mi è venuto Gianfranco a portarmi quel carretto, io l'ho visto con l'antenna ben bassa, questa estate faccio qualche lavoro in più, adesso vediamo, pure con mia figlia, se non so se la mettiamo sopra, ma non voglio che si veda molto, già va bene così, non me la fatti nulla. E invece Robè, con questo qua quanto ti sto arrivando? Un peluttino più di 9:20. Cappa. Vabbè, questa è un'altra radio, Ci sono anch'io, buonasera! Ciao Luigi, è un amico mio, è vero Gesù. Ciao Robè, buonasera a tutti, allora. Qui c'è Torre di Controllo e Franco California. Avanti Franco e poi Claudio. Ciao Eugenio, buonasera, spero che mi ascolti, sì. Ma voglia. Alla grande, buonasera anche a te. Attenzione, Franco California, sentivo a Vitaliche. Ciao Lucariello. Ciao Eugenio, buonasera, ben ascoltato. Abituati a fare una cosa però, Mi stai ascoltando? A dire brocco? Mi stai ascoltando Eugenio? Dimmi. Abituati a fare una cosa, quando usi quella radio, non accenderla ad entrare, accenderla un po' prima e poi entri, capito? E c'hai dei picchi di modulazione allucinanti. La radio non è bella, scaldare almeno 10 minuti. No, io l'ho accesa, ho fatto quello che dovevo fare, mi sono cambiato per essere riportato adesso. Mi ho messo tutto a posto, insomma, e poi mi sono entrato, non era già accesa poco fa. Non mi scordi perché quello ha bisogno di... Un attimo di subito, entra a freddo perché poi fare danno. Aspetta un attimino che... 140 purtroppo qui, bisogna aspettare un po'. Beh, Lucariello, Pedivella. KK. Perché? Ma dice che stavo prendendo la radio. Stavo prendendo la radio? Ma cosa è il convoglio adesso? Ho sentito, dice Eugenio, sto prendendo la radio. Boh. No, stavo scherzando, su volgarsi, ma questa no. Ah, guarda che sto vendendo un 48 modificato, se c'è qualche amico che interessa. Se sei tu qualcuno, faccio a terra. Ma che camionista ti ho accorto, mio, oggi? Bella, nuova, nuova. Se sei tu qualcuno, chiedo, se tu qualcuno... Radio a camionista è però, perché io qua a casa non la uso, capito? Già ho capito. Modificata a cosa, oggi? Non la uso qua, non mi piace a me, non mi utilizzo questa la radio, che è meglio. Sì, tutta modificata, tutto il modulatore, c'ha tutto, Ma quando che... Non modifichi il coso, il microfono, le meno più 4. Però ancora le meno più 4, quello ancora sulla scatola, il negozio, con l'uscita a basso. Lascia una di arrigandimire oggi il tuo microfono. Se non trovo il tempo. Sali me una settimana, se si assassa e fa uno squillo, me lo dai, te lo faccio, non c'è problema. Sì, d'accordo, come faccio a rintracciarti? Oh, avevo subito. Chiedi, il numero c'è da Claudio, fatelo passare da Claudio al limite, oppure te lo do io, te lo segni. Me lo passa a Claudio, va, io non stavo a dare i numeri di frequenza, me lo passa a Claudio che ce l'ha. Non avevo più numeri io. Scusa, no, io sono rincoglionito per dare numeri, vero Robo? No, ma ce l'ha buona strada. Oh, qua. Poi. Io ho sentito un amico per questioni di lavoro, cose del genere, fa parlare di sento la sera, io ero un CB, un vecchio CB, eccetera, eccetera, c'ho la radio, voglio rimetterla, c'ho la macchina, lui fa manifestazioni di appassionato di macchine d'epoca, fa un altro lavoro, dai, non diciamo cosa si può, cosa fa perché non bisogna dirlo, c'ha il baracchino, vuole mettere il baracchino nella 500, mi ha detto cosa doveva fare, la concessione, eccetera eccetera, perché c'era la manta, ma era buttata. Si chiama Piero questo qua, ti conosce a te, perché lo sia Claudio Spalviero, già lo conosco, poi ho fatto dei nomi, però entrava una quindicina di anni fa lui. Il cognome non te lo posso dire quasi, quando capita già te lo dico, ma ha detto il nome attivo, lo so, abita in zona di della Bundibundi, come si chiama, giù nella parte bassa. Piero, magari è Piero Drago. Non Drago, c'ha un altro nome attivo. Vabbè, ti dico dove lavora, così magari ti viene. Con la foresta le lavora. Ah, io lo conosco, tra voi che se lo conosco. Lo conosco, sì. Ma perché non lo mette il baracchino, anche il vostro, c'è anche un bel baracchino. Ne ha diversi di baracchini, poi mi ha detto ti mando le foto, per cosa si possono vedere di quelli veicolari, della cioè, pace, puni, eccetera, eccetera. Poi ne ha uno che non so che problema c'ha, c'ha un Pluto, no, la metto l'antenna, perché qualche volta ho acceso ma non sentivo nessuno. No, la sera c'è qualcosa, ho sentito a te, ho sentito a Claudio, mi ha detto, e a Tino mi ha detto qualche volta, però molte volte la c'è, lui accende in orario che non bisogna noi. Non devo entrare a quest'ora. Prima dell'ora di cena, io dopo cena non entro, può capitare così di sabato se c'è qualcuno, l'ho fatto l'altra volta, sono rimasto fino alle 9:30 con Carlo facendomi due chiacchiere, ma è difficile, capito? Io dopo cena mi bocio il calduccio, mi guardo la TV. Gappa gappa, vai oggi ti prendi. Mandami il numero di cellulare Franco California, ma mandi che mi baghi, te lo mando là perché devo uscire fuori, io non prendo il telefono dentro, abbi un attimo di pazienza, poi te lo mando, capito miei? No, quando ti viene comodo, va, quando ti viene bene. Io, no, perché non prende, devo uscire fuori in veranda, c'è freddo, capito? Non prende lì fermo all'angolo della porta, ma è difficile che prenda. sto aspettando a cambiare compagnia, ci ho fatto di balle, ma non ho potuto farlo. Allora me la facciamo da vedere, stanno bigliando, non pigliare mai da sabbigliare. Vai Franco, K. Glielo volevo dare qua, ma è meglio glielo passi tu qua. Ah no, te glielo do io, no, non ti preoccupare, già va bene. Ok, ok, va bene, dai, avanti, va bene. Figa, infatti c'è un bel disegno anche un'altra persona, però questo l'ho ascoltato da tanto, non è un CB, però c'è una radio, un amico di Giulio, un amico di famiglia mia pure, e quello ascolta molto spesso, la sera dice, vi sento fatta chi? No, non mi interessa, c'è un'antenna piccolina, una piccola Grand Plain. Ehi, va bene, ma che sto basta entrare, facciamo quattro gatti, però... Perché io rimango sempre nelle mie, se c'è gente che mi interessa chiacchierare va bene, diversamente se c'è qualcuno che non mi interessa non rimango all'ascolto, capito? Oppure rimango in radio ma con un bello, non me la fatti tutto, ci ho mai capito, vabbè, ne abbiamo già parlato, però queste persone qua sono persone in gamba, Piero è una bravissima persona. Ma poi c'è una persona, capito? Però se non entra, cosa dovrà fare la baracchina? Ma lui era indeciso, cioè se avessi saputo che c'è gente, adesso mi cerco l'antenna, eccetera. Lui perché fanno le manifestazioni erano sempre con i portatili, no, io mi voglio mettere il baracchino, così anche più bello lo tengo in macchina, uno di quelli piccolini vecchi, voglio mettere quando fanno le manifestazioni. E poi a casa mi voglio rimettere l'antenna, ma ho detto non poca gente, non sento nessuno, un paio di volte ho sentito a te Claudio e Tino, mi ha detto. No, ho detto se vieni la sera, in tutto, c'erano tutti insieme. Saremo nella zona di Sassari, Porto Torres, Muro, saremo 20 persone, se vengono tutti, poi mediamente siamo 3 o 4 la sera. Avanti Eugenio. Non so cosa, che se poi, vabbè, per carità è meglio che la gente che riscopra la radio, per carità, che una volta quando inizia a essere un po' troppo grande, diciamo, un po' troppo ampia, viene male anche a riprendere, perché uno si dimentica di c'è, quindi. Però per carità, meglio che ci sia la gente nuova. Guarda, grazie a Dio, siamo gente tranquilla, abbastanza educati, rispettosi, magari c'erano dei momenti qualche anno fa, io lo ripeto, non sono vecchissimo di frequenza, al 2004, ma c'erano dei momenti un po' di confusione, parlavano sempre gli stessi, non ti facevano parlare, battute, offensive, risate in età. Adesso nel complesso già possiamo dire che ci sono persone tranquille. Vai Franco. Capa di positivo, ferma, capite oggi, adesso una volta che te lo passa quel numero, poi ci mettiamo d'accordo, me lo passi e te lo sistemo e poi ti richiamo e te lo prendi, non c'è problema, ok, dai rilanciamo a Roberto, allora Roberto tutto a posto. Diciamo di sì, quello che va bene, quello che non va bene non ci dobbiamo buttare, non ci possiamo mettere troppi problemi. E tu cosa stai combinando, Fra? È sempre la stessa cosa, la sto combinando, già lo sai quello che faccio io, no? Allora, io faccio sempre quello, non è che cambiano, però mi abituo a fare anche altre cose, non è che faccio solo quello. Ma una domanda, tu adesso ti sei stabilizzato qua in città, non eri a Canega? E io sono un po' qua, un po' là, adesso perché c'è freddo sono qua, poi quando comincia il caldo, qualche giornata bella me ne vado giù. Ah, diciamo un periodo buono, d'estate per dire te ne stai giù di lì. Ma d'inverno, vabbè, è bello perché dormi bene, tranquillo, sereno, però c'è freddo, è un casino, umidità. Ma in che zona sei? Io non l'ho capito esattamente, zona Prato Comunale, zona Molaffa, zona Manga di Laino, cosa c'è di lì? Manica San Giorgio. Canica San Giorgio, di lì abita, vicino, faccio il capolinea del tram di lì, che scende giù. Cappa di positivo, proprio lì. Ci abita un'amica mia di lì. Come si chiama? Magari la conosco. Vabbè, qua non lo voglio dire, non mi va. Vabbè, forse ho capito che era, vabbè, comunque non fa niente. C'è una casa che fa proprio ad angolo grande, una bella villetta, c'è un ettaro di terreno. Elia, ho capito, quella come giri l'angolo, dai, che prende la discesa. Elia. Io ho capito. La conosco. Eia, ok, vediamo un po' l'amico carissimo di Porto Torres davanti a te. E beh, guarito il seu, Ah, che bello, domani ci rientra al volo, bellissimo. sta cominciando a strangolarmi a casa. Pappa di me, perché domani è previsto un po' di fresca. Tu hai visto il mare, il video di Platamona, ogni burrasca, chi vera. Un po' di surfisti c'erano anche a Portoferro, ho visto un amico, ha messo un bel video, belle onde. Lo so, io ero lì. Sì, vai Claudine. Belle onde, senti erano belle onde. A Portoferro. Ah, allora c'è tua nipote che è surfista. Non solo mio nipote, mio genio, i miei nipoti, mio genio, poi altri amici, no, ma non c'erano loro, l'ha messo lui il video, ce l'ha pubblicato lui, con il portafoglio, ma ho visto Platamona, era un bel di onda. Platamona c'ero io stasera, allucinante, una tramontana da paura c'era, ma proprio un bel di mare. Ma ci deve essere alzato stasera, perché stamattina io sono uscito e non ce n'era il vento, deve essere se pisurato il pomeriggio. Era. Ho parlato sopra di te, Eugenio, cosa hai detto? Ho detto che oggi ho visto uno con l'antenna, con la macchina bianca con l'antenna al centro, con la macchina. Chi era? Boh, non era Mario il produttore, era una, non mi ricordo che macchina era. Sarà stata la macchina di Bruno. Chi? La macchina di Bruno. Un signore senza capelli. Senza capelli, no, i capelli già ce li ha Bruno, allora non era lui, senza capelli. Saranno migliori quelli capelli. C'era stato capo di zucca già. Capo di Cindria, l'amico Fritz. Non lo so. Ah, sta uscendo, sì. Se non ci muovendo, no. Ah, ci avevo ancora invece di metterlo in power per avvio in LC. Sta uscendo, sì. Ehi, acqua, poi ho, se passi domani ho guardato delle cose di quella cosa che mi hai chiesto. Quattro ruote? Ehi, sì, sì, tanto alle 10:15 devo avvicinarmi in comune, che devo vedere alcune cose che mi servono, quindi all'ufficio tecnico, e ci passo. Quando caffè ci passo domani mattina. La classe ti capita un PS53. A me stai dicendo? Chi lo stava cercando? Lo stava cercando coso? Quanto si chiama? Marco Scuto, poi l'ha trovato. Io lo stavo cercando uno, ma non lo trovo. Un PS53, poi ci completavo la linea. Ecco PS53, fa il PS50, non 53. Ah, è il PS50, cioè il 50%. Quello che ero io, non c'è la linea. Sto cercando la T250, ragazzi, ragazzi, mi posso la linea 140 allora, se lo trovo, se no c'è il bianco. A me va a dare di plastica. Certo. Però mi manca l'alimentatore per completarlo. Perché robe? Certo, c'è la roba, tu avevi tutto. Adesso meno male, speriamo non ti vendi quest'ultimo che ti sei comprato. C'è tutto. Poi ti decidi, te lo vendi e poi te ne prendi e te lo dovrà comprare. Sempre ho fatto così, sempre robe, sempre. Non riesco a stare senza il K, io la verità, hai pienamente ragione, io avevo tutta la linea completa, la 140, e anche la T250, poi mi sono stufato, ma gli ho venduto il tutto, e poi me la sono comprata. Adesso c'è il nuovo 140, alimentatore, la colonnina non anche la T250, e vabbè, è dove va. Quando si è anziano è un capo di Roma. Ma la T250 te lo sei venduto anche da pochi mesi, forse questa primavera, quando l'hai venduto? Sì, sì, no, l'estate scorsa l'ho venduto. Perché non stavo pisando, poi c'avevo troppe radio, c'avevo un mare di radio, anche di un mare. Adesso mi sono tenuto quelle che uso e basta, non ne compro più di più. Va bene questa, capito? Però se c'hai la linea completa al 140 è molto, molto utile. Sì, naturalmente fa anche più scenografia, però sinceramente te ne fai qualcosa della T250. L'accorgere automatico di linea per me è importante, Roberto, me ne accorgerai quando ce l'ha, perché un radioamatore se non c'è l'accordatore automatico, un accordatore manuale è sempre un problema. Io radio con accordatore non ne ho più, prima non ne avevo, l'ho venduto perché avevo tutte le radio con accordatore automatico, adesso sia il 140 che il 430 non ne hanno accordatore, quindi ho bisogno di, se ti sposti di banda, di avere un accordatore almeno automatico, o se no manuale, avevo anche la T230 io, l'accordatore manuale della T230 sempre. Io l'accordatore ore, c'ho l'MT3000, poi c'è quello dentro l'apparato contenuto, e poi c'è un altro MT3000 da vendere, dico l'amico nostro, però ne vo troppo, cioè, ho detto lascia stare, adesso quando lo prendo a fame me lo prendo io. No, non è questione di spendere tanti soldi, è proprio così, da spendere due lire, capito? Per spendere due lire, va bene. È così. Comunque, vabbè, quando quelle cose non le usi, che non ti nascuti nulla, non le dai. Va bene, dai ragazzi, io per il momento vi saluto, grazie delle due chiacchiere, se ci siete ci sentiamo dopo. Altrimenti ritenetevi tutti salutati. Intanto c'è la partita, ci guardiamo uno straccio di partita, qualcosa del genere, poi si vedrà, ok? Avanti Eugenio, riprendi tu, ascolto il finale e poi vado a cenare. Ci sentiamo dopo se ci siete. Ciao! Ciao Chihuahua, ci sentiamo. Ricordate il numero di telefono di Franco che mi serve. Ciao, buona cena e sto andando a casa tua a mangiare, che c'è roba buona. Lo sai che per un amico io aggiungo sempre un po' a tavola. Non c'è problema. Grazie. Però la roba te la portare tu oggetto. No, e viene roba. Ho fatto una rossita. C'è ancora la braccia. Vabbè, perché mia figlia va pure che mi ha rotto, ma va che l'ho fatta. Adesso mi dà. Prima che metto un bel messaggio quando stavo chiudendo il bar, la rimetto sulla graticola, gliela scaldo, la scaldiamo e mangiamo. Ehi, comunque ciao Clara, io rimango ancora un pochettino, poi anche io vado a mangiarmi qualcosa e mi guardo la partita di sottofondo. Vai Franco. E io chiudo perché è già pronto, che le cosce del pollo mi stanno aspettando. Vi saluto, ciao Roberto, ciao Claudio, buonasera, buon tutto, buon carica, ciao anche a Roberto e buonasera anche a te, ciao Eugenio, il numero te lo passa a Claudio, dai, saluto anche gli amici che sono in ascolto. Ritenetevi tutti salutati, per me QRT e se ci siete magari riprendo dopo, ok, ciao a tutti. Ciao Fra, ma rispondi sempre a Ciurale, sì. Ah, non c'è problema, ok. Ok, allora ci sentiamo a giorni, va. Va bene, ciao ancora, vai, saluto a tutti. Sì, ciao Fra, ben sentito, dai, fate sentire più spesso. Ecco la sera, ormai col freschetto che c'è, ci troviamo quasi tutti qua. Vai Eugenio. E a cui siamo rimasti io e te, Roberto. Dai, raccontami qualcosa. Dimmi dello travaglio invece, a che ora entri tu, Eugenio? Alle 4. Alle 4 stanotte? Stanotte domani, sì. Stanotte domani, come vuoi dire? Dico alle 4 del mattino, non alle 4 del pomeriggio. No, alle mattino, cosa alle 4? Di mattina. Ma devi riposare o sei già bello arzillo per entrare? No, se mi concorso, mezzanotte sul mattino. Non riesco più a prendere il sonno. Ah, mi ricordo verso mezzanotte, va, nelle 11:30 mezzanotte. E non ti basta, quel poco sonno? Io non sono uno che... Non sono mai stato uno attaccato a letto. Basta quelle poche ore, se no poi mi alzo un po' mal di schiena, mal di testa. Bastano 2-3 ore, io sono a posto. Ma il camper è sempre al porto, lo stai tenendo? No, il camper c'è dentro casa. Ma il camper lo porto al porto quando... Che ne so, tra una ora e l'altra ho due ore, capito, un'ora e mezzo, due ore, allora per non salire a casa rimango lì in camper. Ah, per dire, periodo estivo, se ti vuoi fare una doccia veloce, un riposino. Esatto, più per il periodo estivo che con l'invernale. Per il periodo estivo che magari ho più navi da fare, allora scendo il camper, rimango lì tranquillo, faccio una doccia, capito, mangio qualcosa, mi guardo la televisione. Che ci stai buttato al bar che non mi piace. Sì, allora una cosa, a che ora smonti? Domani? Alle 10:30. Ma alle 4 dice del mattino, cosa arrivi? Che navi arrivano? Niente, domani la notte arriva alle 7. E cosa ci fate voi alle 4 del mattino? Niente, dobbiamo stare in guardia, secondo gli ordini della capitania. E guarda di cosa? All'aeroporto, se arrivi subito al porto. Perché una nave può sempre anticipare, così ragiona la capitaneria. Può sempre anticipare, ci vuole la squadra la squadra è pronta ad agire quando è. Oh, ci sono stati casi che è tornata indietro e noi eravamo, meno male, eravamo lì. Ma c'è sempre gente 24 ore su 24 delle macchine? Diciamo di sì, lì presente no, però a casa sì. È reperibile, capito? In un quarto d'ora, massimo 20 minuti, devi essere lì. Dico, se capita una mareggiata grossa, la nave deve rientrare in porto, se ne sta in rada di nascosto, alla fonda, vedete, se c'è vento grosso, pericoloso, deve rientrare, vi possono chiamare? Lui ci chiama, è come che ci chiama. È capitato che vi hanno chiamato? Ho voglia, sempre, l'inverno quando sono mareggiato sempre. Ed è capitato che rientri la nave, addirittura? Sì, per malori, perché sono obbligati, donne incinta, gente che è caduta e magari si è alzato la testa, perché nella nave c'è un'infermeria, sì, ma sono i medici di bordo che sono medici generici, non è che ti possano fare chissà cosa, quindi preferiscono tornare indietro. Ah, proprio fanno, vabbè, sei vicino, tornano indietro, ma se lontano a 10 miglia non mandano un mezzo di soccorso. Se la roba non è, se ha bisogno di urgenti cure, magari viene anche l'elicottero e la nave continua ad andare dove sta andando. Però se nel caso, cioè, tu dai su una donna incinta che vengono gli attacchi di panico come l'ultima volta, gli avevo gli attacchi di panico perché è incinta, è col mare, gli attacchi di panico che non riescono a controllarla, torna indietro e niente. A noi era capitato invece che la nave non partiva, mi devo andare in Corsica, ad Aiaccio, partendo da Porto Torre, dovevamo partire alle 3 del pomeriggio, poi la Romana in burrasca, forza 7, e il comandante, no, non si può partire, non si può, la gente insiste, no, partiamo, siamo partiti all'1 del mattino, ci hanno dato le cabine, siamo arrivati dopo 3 ore e mezzo, no, di più di 3 ore e mezzo, perché con Maria Gittato ci abbiamo messo 5 ore, non 3 ore e mezzo, per arrivare, siamo arrivati all'1, più 5, alle 6 del mattino siamo arrivati. Sì, beh, certo, perché il comandante decide che la legge sulla nave è la legge, capito? Se decide che ci sono le condimette da non poter affrontare, che è meglio non affrontare, aspettano che cali un po' e poi niente, poi si parte. E vabbè, noi siamo sempre lì, dobbiamo stare lì in ogni caso, fin quando non parte la nave. Ma è capitato che la nave non riesce a entrare in porto, queste grosse nuove? Puglia, rimane il radar, sì. E rimangono fermi, ma buttano le ancore? Certo, si mettono a ridosso, capito? Si mettono a ridosso, della ginara, a volte i piloti dicono, guarda qua c'è mare grosso, c'è il vento, che ne so, a 100 km ad Africa, 100 km orari, no, ma sono, che ne so, a Capo Pertusa, più giù di Capo Pertusato, là si mettono a ridosso della Corsica, capito? Se c'è maestrale o se c'è levante forte, si mettono a ridosso della Corsica, neanche scendono qua. Levante grosso è pericoloso, direi, per l'ingresso del porto, cacchio ti si chiude in banchina. L'ingresso del porto è pericoloso con qualsiasi vento, sia maestrale che levante che ponente. Sì, vabbè, naturalmente se c'è il vento a 100 km orari anche lì invece può essere pericoloso, se c'è fa vento di terra, vabbè, venti da sud, però magari ti spinge la nave. Poi i rimorchiatori che abbiamo noi sono biciclette, secondo me per le dimensioni di quelle navi sono troppo piccoli. I rimorchiatori che abbiamo noi non possono neanche più fare il compito che fanno, lo sai, perché hanno più 30 anni di servizio, però li lasciano. Non so come facciamo, però sono lì. Sì, infatti, a parte la vecchiaia, ma sono troppo piccoli come spinta rispetto a... Se tu vai a Genova, penso che ci sei andato, ci sono quei rimorchiatori oceanici che sono spaventosi, 4 volte 15. Qua c'è quello Vincenzo Ronatto, l'altro mentre si chiama, uno c'ha addirittura un motore, cacca ancora. C'è, sarà degli anni 70 quello il rimorchiatore. Sì, ma perché sono vecchi. No, ma dopo 30 anni, dopo 30, 35 anni di navigazione, una nave va, anche i rimorchiatori vanno presi e rimodellati, cioè dipende sempre dalle navi, perché non sono neanche più idonei, quando fanno il servizio rimorchiatori alle petroliere, non sono idonei per farlo, ma neanche per la Tirrenia, capito? Neanche per la Tirrenia, però è onorato forte, è mafioso, che riesce ancora a farli andare. Sta vendendo tutto, mi sta prendendo una ditta tedesca. Lo so, eppure a livello di tecnologia dei rimorchiatori siamo i migliori al mondo, noi e gli olandesi fanno i migliori rimorchiatori del mondo, le macchine migliori sono proprio le italiane, famose in tutto il mondo, anche gli americani li comprano, i rimorchiatori italiani, quello, uno dei più grandi del mondo come spinta e tutto, è costruito in Italia, dalla Fincantieri, una pista di rimorchiatori, vabbè sono di quelli oceanici, non sono per questi porticcioli così, quando fanno salvataggi in mare aperto, non mica qua, però... Anche a noi avevamo i rimorchiatori di quando ero bambino io anche. Esatto, io all'elementare ci avevo fatto la visita con l'onorato e non servono più i rimorchiatori. E comunque la Fincantieri ce n'è una parte a Genova e una parte più grande in Finlandia, non ce n'è più in Italia. E anche loro hanno cercato delle postazioni dove sia più conveniente produrre, però sono sempre delle ultime navi, fanno la cosa, anche quelle costa crociere, quelle cose lì, sono tra le più grandi al mondo, sono fatte dalla Fincantieri, bellissime, belle e gigantesche soprattutto. Ma stavo dicendo, ma c'è il limite di lunghezza di nave al porto di Porto Torres oggi? No, assolutamente. No, niente, nessun limite. Nessun limite. Il pescaggio magari, che è diverso. Cioè la petroliera di 300 metri può entrare dentro il porto di Porto Torres? Certo, se entrano le carboniere, sono lunghe 300-400 metri le carboniere. Dipende sempre dal pescaggio che hanno, capito? Il pescaggio per entrare nel porto, quello in città diciamo, ci vuole un certo pescaggio? Sì, sì, a parte il pescaggio naturalmente, c'è cioè il fondo, agli altri fondali infatti le mettevano con le grandi, però siccome come si chiama, l'ingresso del porto non è che sia larghissimo, se viene una di quelle super petroliere di 50.000 tonnellate, 80.000 tonnellate che sono larghe 40 metri, a giù mai, come fa a far entrare, a manovrare? Noi abbiamo un porto che, a parte la petroliera lì non entrano, perché il porto in città non entra nessuna petroliera, però abbiamo un porto che può, beh, è entrata la costa crociere, entrata a Porto Torres, però che quella è bella grossa e è grande, però purtroppo il pescaggio è quello che dovevano dragare, fin quando non dragano il porto non ci possono entrare, capito, nella banchina. Cioè, nella macchina in città, dietro il bar più fiscale, là, diciamo, dietro la piazza, ci attacca con la ferrata di Corsica, ma di pescaggio quella c'ha 2 metri, capito? A pieno carico ha 2,50 m, quindi ci va tranquillamente, però le altre no. Una volta ha attaccato la sirena per calorare la banchina, ma ha raschiato sotto. Addirittura, grazie. No, io mi divertivo, mi ricordo un anno a Capodanno siamo andati ragazzi, dai, ragazzini, e siamo scesi a Porto Torres e abbiamo preso, cioè presente quei fischioni tipo razzi che li tiene in mano e fanno shhh, e scoppiano, li abbiamo tirati sott'acqua, tu avevi la figata, arrivavano giù, facevano boom, tipo un'esplosione, tutto bianco, a fondale ce ne sono 7 metri di legno. Prima, adesso ci saranno neanche 3 metri, ci sono i fondali adesso. Solo. E allora, è quello il problema, perché non attacca lì la Tirrenia? Perché non c'è fondale? Sto dicendo che la Tirrenia di pescaggio c'ha 3 metri e qualcosa. Quando hanno collaudato la banchina, la Tirrenia attraccando la banchina ha racchiato sotto, e quello non lo fanno più entrare lì, perché anche le eliche si erano danneggiate. Io sempre da ragazzo, quando ero più giovane, al mondo industriale mi ero immerso di lì, cacchio, di lì sì che è alta l'acqua. Sì, all'Asi a Puglia, all'Asi è grande, c'è fondale, l'ho viaggiato da Cosca Fresco, sono salocchi. Ma adesso cosa sta arrivando al mondo industriale? Perché c'era un periodo che arrivavano le navi passeggeri, adesso chi c'è? Solo roba, non dico commerciale, roba tipo, come si chiama, merci, cosa del genere? Adesso al porto industriale la banchina del Grimaldi che arriva la nave Città Vecchia, arriva la nave Barcellona. Perché la Grimaldi non attracca più la Porto Torres? No, attacca all'Asi, ha sempre attaccato all'Asi Grimaldi. Allora sono andato in rete a tratta nel porto, diciamo Porto Vecchio, dai, quello sui passeggeri. Sì, attracca la Tirrenia, attracca la GNV, la GNV. Allora il Porto Nuovo è diviso, ci sono tre banchine, c'è Ponente 1, Ponente 2 e Ponente 3, che Ponente 3 è adoperata solo per lo stoccaggio di semirimorchi. Ponente 2 attacca la Tirrenia, Ponente 3 attacca la GNV, molte volte attacca la nave della Corsica, la Salvina Ferris, invece all'Asi 1, diciamo, all'Asi 1 attacca la Grimaldi, che ha proprio la sua banchina, che è città, attacca all'Asia, attacca lì, all'Asi 1, diciamo, la prima banchina, Asi 1, e lì ci va quella di Civitavecchia, quella di Barcellona e quella di Genova, che fa merci, quella di Genova, che io sono lì domani. Ecco. Ci davate bene. Ciao Roberto, Fabrizio. Ciao Fabio, compagnia mia e compagnia di Eugenio. Avanti Eugenio. Ciao Fabrizio. Ciao Eugenio, ben sentito. Ciao, buonasera. Ascolta, voglio provare un microfono prima di smontarlo. Posso? Certo che sì. Aspetta che lo attacco. Fai, non c'è problema. Buonasera, buonasera. Ecco, 9.55 arriva qua Fabrizio, nel bottello. Mia Luca, buonasera a lui. Sto uscendo, ciao Fabrizio, ciao Eugenio e ciao Roberto. Ciao Luca, Fabrizio, alternata, non sta uscendo. Non si sente, nel fondo ti sento appena appena la radio, tutto il resto è alternato. Io non sto uscendo, però alternata non mi sento da questa parte. Sì, si sente nel sottofondo poco, però si è abbassato il segnale 9.40 adesso. Ecco, prova a cambiare una capsula ed un vecchio microfono, se no lo smantello. Ma sempre la 48? No, questo è un altro. Certo, è una radio potentissima, un po' distorta ma è fortissima, sei oltre i limiti di sicurezza. E questo è quello dell'altro giorno, vabbè, quello che avevo rimesso a posto, dai. Eia, c'è Luca, pure avanti Luca. Eia, ciao Fabri, no, da me, ma con me arrivo, a tratta non ne sentivo. Aspetta, provo l'altra capsula, aspetta. Caparocci. Eugenio, ma la più grande di tutti come dimensioni è sempre la Tirrenia, no? Ah, ci sono le Cruis Roma e la Cruis Barcellona, che sono grandi quanto la Tirrenia, no, di più, sono più grandi la Tirrenia, e quelle sono delle Grimaldi, che attraccano all'Asia. E quelle non possono attraccare nel porto di Porto Torres? Sì, potrebbero attraccare, però la Grimaldi si ha preso lo stallo, diciamo, la banchina sua, c'è la banchina sua, capito? Dove c'è vicino la stazione, la sua stazione marittima e niente, e lì ha preferito rimanere lì. Una domanda da te, visto che tu le vedi sempre, se tu devi andare a Genova, che tipo di nave ti prendi? La Tirrenia, la Grimaldi o grandi navi veloci? A Genova? Se ti devi scegliere indipendentemente dal prezzo, che nave ti prendi? Vabbè, a Genova la Grimaldi non ci, cioè, ci va, però non può imbarcare, perché sono merci. Quindi ci rimane la Tirrenia e la GNV. E dipende se hai fretta o meno. Io sono sempre andato con Tirrenia, infatti un'ora prima, arriva un'ora prima di quello là, come durata, mi sono trovato sempre bene, però la mamma ne dice un amico che Tirrenia ha perso curvi, che è meglio GNV. Ma d'estate, guarda, d'estate se vuoi fare il casino c'è GNV, che su c'ha la discoteca, ha il bar col DJ, insomma se voi siete iniziate qua, ma che dopo gli durano... Però quelle influiscono sempre sul prezzo, capisci, ti fanno pagare tutto. Ma a me, se io dovessi scegliere se andare a Genova, preferirei la Tirrenia, perché arrivo a prima. Comunque, ricordate una cosa, che la Tirrenia nei porti ha sempre la precedenza, perché ha il servizio postale, quindi entra sempre prima di tutti. E non è poco quello lì, io sono sempre andato in Tirrenia, proprio per quel motivo lì, arrivava prima, la nave erano anche più moderne, adesso non so se magari la GNV ha fatto delle navi più nuove, però all'epoca era la più moderna di tutti. Fabio, sta uscendo? Sta uscendo. Niente Fabrizio. Quando ti arriva Fabrizio a te? Arriva, no, arrivi tu. Quanto? 9, cosa arrivi tu? Adesso va a rimasto molto più forte, lui c'ha una bella posizione in alto, ok. Luca dietro. Comunque se devi mettere qua viene vengono le genie più vecchie quest'arte. Bello è quando imbarchi sulla Suprema, sull'Eccelsior, quelle lì, quelle già sono belle in alto, sono belle, belle recenti. Ma qua arriva. Arriva l'Allegra, arriva la Bugosera, non mi ricordo neanche più, sono navi vecchie, ben curate, pulite, tutto quello che vuoi, però sono navi battate. Guarda, io anni fa, che l'avevano inaugurata, c'aveva pochi anni di vita, uno o due anni di vita, sono entrato sulla Napoleone Bonaparte per andare a Genova, che portava anche a Barcellona con la nave, era una cosa, aspettare, era appena uscita, era roba nuova, con le piscine dentro, idromassaggi, tutto era pieno di alberi dentro, mai vista una nave con gli alberi, ma era una cosa spettacolare, proprio bella. Poi ho visto che ha pigliato fuoco con la nave a Marsiglia, ha preso fuoco e l'hanno demolito. Sì, ma Bonaparte è nata come una bella crociera, Poi è stata acquistata dalla SMCM e l'hanno trasformata in nave merci e passeggeri. Quindi quella nave è nata per essere una bella crociera, la Napoleone Bonaparte. Bella, veramente bella, poi tutta luminosa con i vetri verdi c'aveva, cioè ti potevi, c'era la paletta per dire fronte mare, le biciclette, le ciclette, però la cosa mi ha colpito più di tutti c'era queste piscine bellissime dentro la nave con le cascate, le palme, poi c'erano vasche di massaggio a quattro posti, ti mettevi dentro, era una cosa spettacolare, ma bella bella, infatti ha detto bene, era nata come una bella crociera. Sì, era bella, è nata come una bella crociera, capito? E per quello era bella così. Poi l'hanno trasformata, è diventata merce e passeggeri come la Tirrenia, però era sempre ben curata e ben finita, perché i francesi ci tenevano. Poi la SMCM ha fallito e poi vabbè, quella aveva preso fuoco, l'aveva demolita. Poi prendevo dall'altra parte negli altri fondali, prendevo quelle corsica ferrie, anche SNCM c'erano di lì, diciamo erano navi così, misto merci passeggeri. Sì, era una forma fatta fra di quella cerchia lì, SNCM, cosa era? Vabbè, la corsica ferrie c'era l'altro fondale, no. Perché ha sempre attraccato lì, vicino, diciamo in città, la banchina che c'è dietro il cristallo. Avrei preso, per andare in Corsica, hai preso il Santa Regina, il Portocardo, il Calliste. Sì, hai detto bene, così, è vero, vero. Prendevo quelle di là che attaccavano dall'altra parte. Come non detto. Vediamo se Fabrizio ha risolto, ci sei Fabrizio? Sto provando un microfono, se trovo un'altra capsula, non so se smantellarlo o rimetterlo a posto, aspetta. Adesso va un po' meglio Fabrizio. No, vabbè, adesso sto usando l'altro microfono, il suo. C'è un po' troppo alto, dovresti abbassare un po' il livello Fabrizio. A picchi 9,5 arriva Fabrizio. Ho abbassato, ma probabilmente poi mi avvicino troppo al microfono. Ma quanto ne stai dando a questo giocattolo Fabrizio? Ecco, adesso non lo so, dovrei controllare. Arrivi oltre 9,50 con i picchi. E guardate che vada bene. Adesso va molto meglio, forse hai abbassato il microfono o ti sei un po' allontanato. Come ti ho sentito l'amico Riccardino? Riccardino ho sentito il padre da poco. Riccardino mi aveva salutato tempo prima, mi ha detto di entrare. E non stava entrando per il fatto l'anno scorso, quest'estate che non stava andando bene a scuola, adesso è alle superiori. Ma lo chiamo uno di questi giorni quando siamo tutti in compagnia di Tario, entra pure, Mario è un po' timido adesso, perché ci sono state un po' di discussioni, Mario si è rimasto male. Mi da chiamarlo e poi mi vai a aggiornare anche su quell'altra questione, Roberto. Guarda, se ho 5 minuti di tempo domani lo chiamo e cerco di risolverla questa roba, perché sinceramente già te l'ho detto Fabri, io certe cose quando si danno delle cose sono il primo a restituire. No vabbè, ci sto per sapere. Aspetta, provo un'altra, se c'è un'altra capsula, aspetta. Speriamo che funzioni, che non abbia fatto danni di quel giocattolo Fabri. La paura mia è quello lì che si attarrà male per qualche cosa. Vabbè, pace, me lo riprendo, non è un problema, me lo controllo, vabbè, non è un problema. Va bene, dai, se domani è un po' lunedì, è un po' fastidioso la situazione, ma se riesco a chiamarlo lo chiamo domani e poi io ti faccio sapere. E poi se ti capita il tempo per quella saldatura che ti avevo chiesto, Fabri, quando te ne togli un po' di impicci, mi fai il favore. Sono appeggio, quando vuoi me lo porti e te lo saldo, aspetta. Sì, allora con calma, dai, facciamo passare questa settimana e poi ne parliamo. Vediamo, Eugenio, come mai ti chiami Eugenio? C'è qualche parente, qualche nonno? Non è un nome, ne conosco pochi di Eugenio io. Ma cosa ne so, mio padre e mia madre non sapevano cosa fare il giorno. Anche non ti piace il nome Eugenio? No, non mi piace. Anche perché molti lo storpiano, Eugenio, mi dà fastidio, ma veramente. Sì, addirittura, no, è bello, il nome non ce ne sono tanti, ne ho un paio di amici che si chiamano Eugenio, poi c'era Eugenio Montale, quello scrittore, cos'è, parente tuo? Sì, magari, e questi soldi in banca abbiamo lasciato. Sì, non so manco se è muso, se è vivo. Sicuramente è morto, l'abbiamo studiato a scuola noi quello. Vabbè, lasciamo un attimino il bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare qua su questo canale dei poveri. Avanti su 10. Canale Mortaccini, avanti, il coppè di me. Lana Mortaccina, tu vabbè forse non hai conosciuto il film di Alberto Sordi, questa è Lana Mortaccina che era andato a prendere i vestiti in questo negozio super lusso e lui alla fine questa sta facendo la toga, questa è Lana Mortaccina, cosa stai dicendo? No, io di Alberto Sordi sembra strano ma conosco solo il vigile. Guarda, se tu vuoi vedere un film che ti pisci dall'inizio alla fine, se ti piace Alberto Sordi devi guardare Ladro lui, ladra lei e poi Un americano a Roma, sono i due film proprio che vede il personaggio che ti fa Ladro lui, ladro lei e buh, non ce n'è per nessuno. Ma non è un tipo di comicità che mi piace, come Totò è un grande, cioè era storia, ha fatto la storia della televisione italiana, della comicità italiana, ma non mi fa ridere, ma... Vabbè, quando eravamo piccolini noi ridevamo, adesso sorridi, dai. Vabbè, io sono particolare, a me non mi piace manco Fantozzi, io odio Paolo Villaggio come attore, non mi piace proprio. Ah, cazzo, Fantozzi è mitico, cosa lo odi? E oggi, aiuta, è il numero uno. È il numero uno, per me, poi vabbè, tu lo odi, va bene. Per me piace un sacco, io li guarderei, guarda, tutti i giorni quei film suoi. Posso dire una cosa? Ehi. Non si può dire, però se me lo trovo davanti lo gago in campo, proprio per quanto mi è antipatico, non ho mai potuto soffrire, né come attore, tanto di più come personaggio. Così Benigni sono quei personaggi proprio, mi fanno schifo a vederli, proprio una comicità imbecille che a me non mi va da ridere. Cioè io guardo altre cose, non loro per ridere, assolutamente, proprio no, non mi è mai piaciuto Fantuzzi. Perché poi ripetitivo, va bene, il primo Fantuzzi l'ho per ascoltare, ma dopo ne hanno fatto 250.000 di questi. Così Benigni, io c'ho un amico diventa scemo per Benigni, da pisciarsi dalle risate, ha detto quando c'era il film, come si chiama, il piccolo diavolo, l'altro cos'era, di Benigni, questo si pisciava dalle risate, come lo sapeva da ridi di zio? Allora, se non erro, fatto Villaggio aveva preso la Sardegna. No, è vero, anche questo, vabbè, quello che poi aveva chiesto scusa, però come a te non mi piace, vedi, a me piace Renato Possetto, Lino Banfi, Lino Banfi, Renato Possetto, però preferisco più Lino Banfi, Coso, più come faceva Piedino, come si chiama se mi viene il nome, però non l'ho mai potuto sopportare, ma proprio Fantozzi non l'ho mai manco visto, ne ho visto un film, non mi fa neanche dire, oh come domano lì, ma è una cazzata, per me è una cazzata. Sì, vabbè, a gusti, purtroppo, sono tutti uguali. A me è dato fastidio, ma ho preso la Sardegna, comunque vabbè. Oh, che sto scusa, vabbè, comunque dato non vedo più in molti, bovaraccio. Ma sono i film di cosa? Che Bud Spencer e Terence Hill, cavolo, lì sono quelli lo stesso. Li guarderei volentieri, ma questi di adesso, a me i film belli, quelli che piacciono a me sono quelli di mafia italiani. Vabbè, Bud Spencer e Terence Hill, li guarderei uno dopo l'altro di nuovo, quelli sono film che non ti stufi mai di vederli. Perché perché sono bravi loro, capito? È praticamente la coppia vincente, la coppia azzeccata. Ma non parlo di là di un doppio, ma cari dai, L'avevo preso, sì, me l'avrò visto 250 volte il Trinità, e lo chiamavano Trinità, continua. Ogni anno che c'è me lo riguardo sempre perché lo conosco a memoria, le battute le so tutte. Sì, ma non ti stufi mai, non ti stanchi mai di vederlo, capito? E c'è dello Bori, no, a me non mi ha mai detto. Però tu hai detto Pozzetto, per Pozzetto lo metto allo stesso livello di Gosu, di Matteo Giamma, di meno, di Paolo Villaggio, perché Paolo Villaggio è proprio zero, però Pozzetto, Johnny Dorilli, lui da quella combriccolare non mi sono mai piaciuti a me. Come Diego Abbatantuono, a me c'era il periodo quando faceva Atti da Flagello di Dio, quelle... allora lo leggo, dico, ma ti rendi conto, adesso è diventato attore famoso, ma lasciamo perdere. Cioè,